Prossima fermata, Radio Città Fuscico. Fermata provvisoria. Una tappa della musica di domani. Ciao a tutti e a tutte e benvenuti in questa nuova puntata di Fermata Provvisoria, rubrica all'interno di Fuscico Factory che intende dar voce e spazio ad artisti emergenti. Oggi sarà nostra ospite Giulia Scroppo, una giovanissima cantante ed artista cresciuta a Campofranco, piccolo centro dei Monti Sicani. Fin da piccola ha dimostrato la sua attitudine artistica prendendo lezioni di danza, cantando e recitando in vari musical della compagnia teatrale locale. Dall'età di 8 anni studia canto moderno e partecipa a stage e masterclass, esibendosi in diverse manifestazioni e programmi televisivi locali. Appena maggiorenne, Giulia scopre la passione per il pianoforte e si ritrova a comporre le sue prime canzoni. In seguito incide presso il Master Play Studio. A luglio 2020 firma per Carioca Records, con la quale ha pubblicato Scie Chimiche, Appese a un filo e Ancora in piedi. Giulia nelle sue canzoni è semplice, ma mai banale, senza filtri e diretta, allegra e spensierata. Canta di sé e dei suoi sogni con leggiadria ed emozione. Passato tanto tempo da quando eravamo distanti ma felici. Nel mondo in cui stiamo girati di spalle, guardando le stelle marciare verso pianeti di perle. Ma viaggiando anni luce via di qua, con la finestra sul tetto, cercando Marte dal letto. Mi prendi per la mano e punti su, si vedo gli aeroplani da qua giù e tutte quelle scie bianche. Sai se sono chimiche e prendo con la mano un ciglio che è caduto sul tuo viso come lacrime. Soffiando esprimo un desiderio per memorizzare la tua immagine. Ho scoperto che da quando non vedo la luce vivo ogni momento tra guerra e pace, sfogliando le foto del nostro passato ripieno di panna al cioccolato. Ma viaggiando anni luce via di qua, con le lenzuola macchiate dal mio rossetto baciate. Mi prendi per la mano e punti su, si vedo gli aeroplani da qua giù e tutte quelle scie bianche che non sai se sono chimiche. E prendo con la mano un ciglio che è caduto sul tuo viso come lacrime. Soffiando esprimo un desiderio per memorizzare la tua immagine. Ti vedo gli aeroplani da qua giù e tutte quelle scie bianche che non sai se sono chimiche. Allora, per cominciare volevo chiederti un po' com'è nata la tua passione per la musica e se c'è qualcuno che ti ha fatto avvicinare alla musica e all'arte. Certo, allora, sembra un po' una risposta banale, ma credo che la mia passione per la musica sia un po' innata. Diciamo che ho solo ricordi di me con la passione per la musica e la danza, quindi... Sì, già da piccola ho iniziato a cantare anche al karaoke. Racconto sempre questa cosa che io non sapevo leggere, ero veramente molto piccola e quindi mia madre si metteva accanto a me e mi diceva prima le canzoni da cantare, le parole da cantare al karaoke e poi io le ripetevo cantandole. Quindi sì, credo che sia proprio innata, ho sempre cantato, ho sempre ballato. Se devo pensare a chi mi ha fatto avvicinare alla musica, credo proprio i miei genitori. Mia madre alla danza, mio padre al canto, sono tutti loro quelli che mi hanno aiutata anche a coltivare questa passione, sì. E invece, quali sono le tue influenze musicali? Quali artisti hanno segnato in particolar modo la tua musica? Allora, bella domanda. Diciamo che io ascolto tantissimi generi diversi, non ho dei punti di riferimento fissi. Se devo scegliere, diciamo che la mia musica è pop, quindi la mia influenza più pop, anche internazionale, mondiale, un esempio Ariana Grande, Dua Lipa, però comunque capirete che sono delle cantanti mostruose, delle dive assurde. Però sì, ho influenze contemporanee. Dico sempre che i miei cantanti preferiti sono anche Fragmentale o cose particolari come Cosmo, quindi sì, sono un po' un miscuglio di cose le mie influenze. Ottimo. E come sono nate le tue canzoni? Cioè, cosa significa per te scrivere e comporre musica? Allora, le mie canzoni sono nate per caso, anzi forse un po' per solo, perché io sono stata da sempre un'interprete, quindi facevo sempre delle cover. Qualche anno fa ho avuto un periodo in cui mi sentivo un po' incerto, perché non credevo di saper scrivere, come se mancasse qualcosa. Poi un giorno ho deciso di provarci e inizialmente ho scritto in inglese. Le mie prime canzoni sono state in inglese, però non essendo madrelingua ho deciso di cambiare rotta e di dedicarmi più all'italiano. Infatti poi ci sono riuscita ed è stata anche una sorpresa per me. Inizialmente ho proprio nascosto questa mia cosa, quindi ho nascosto il fatto che io scrivessi. Non so, perché forse mi vergognavo, avevo paura del giudizio, non so. Però in generale scrivere, comporre per me significa proprio esternare tutto ciò che ho dentro. Molto spesso mi rendo conto che scrivendo capisco più me stessa, i miei sentimenti, quello che provo. Infatti succede molto spesso che nei periodi in cui sono un po' giù o penso di più, mi viene molto spontaneo scrivere. Infatti è sempre stata una cosa molto spontanea, molto naturale, non mi sono mai prefissata di scrivere, è nata così tutto dal nulla. Bene, ora ci ascolteremo Appesi a un filo di Julie. Chiudi quella porta con te, passi e te ne vai. Via dai miei pensieri, anche se è un po' tardi ormai. Che ci hai preso gusto a rimanere nella testa, come quando ospiti qualcuno e poi ci resta. E se fossi un cretino ti direi di fare le valigie, andare per i fatti tuoi. E se fossi un bambino ti direi di prendere i giocattoli e giocare con i tuoi. Ma sei solo tu. Siamo appesi a un filo di ricordi e di parole. Lanciati nel vuoto se mi vuoi lasciare andare. Stringimi la mano se hai paura di cadere. Non guardare in basso se hai deciso di belli e di acconciarli come puoi. E se fossimo insieme ti direi di spegnere la luce e di guardare un film tra noi. Ma non sei qui con me. Siamo appesi a un filo di ricordi e di parole. Lanciati nel vuoto se mi vuoi lasciare andare. Stringimi la mano se hai paura di cadere. Allora, Giulia, i progetti per il tuo futuro e per la tua carriera musicale? Ci sono canzoni che stai preparando in particolare o comunque scrivendo? Sì, allora, diciamo che non mi voglio fare progetti troppo grandi, soprattutto nella situazione in cui ci troviamo. Ho delle canzoni in cantiere, anche alcune pronte che vorrei subito pubblicare, ma devo aspettare un po' di tempo e non vedo l'ora di farle ascoltare. Però sì, in generale vorrei farmi conoscere di più, magari anche girare un po' l'Italia, perché comunque in questo periodo non si può fare nulla di tutto ciò e mi manca proprio il pubblico, mi manca andare sui palchi e non vedo l'ora di tornare a farlo come tutti gli altri artisti. Soprattutto perché comunque ho iniziato veramente da poco, mi sono lanciata in questo mondo durante una pandemia globale, quindi si può capire che è un po' difficile come situazione. Quando potremo tornare a divertirci e cantare sotto un palco, quale sarà il primo concerto a cui vorresti andare? Allora, diciamo che gli artisti che ascolto in questo momento sono artisti di livello mondiale, quindi credo sia un po' difficile, però vorrei tanto andarci. Ad esempio ad un concerto di Doja Cat o anche di Dua Lipa, però se dovessi scegliere un artista italiano con qualcosa di più possibile sceglierei Fra Quintale. Io sono già stata al concerto di Fra Quintale, ma mi piace davvero da morire, è uno dei miei artisti preferiti. Oppure ad un concerto di Cosmo, che adoro, e diciamo che ritorneremo tutti a divertirci, soprattutto con Cosmo, che chi lo conosce sa quanto sia pazzo nella sua musica e nel suo genere. Perfetto, grazie mille Giulia, grazie per essere stata in nostra compagnia. Grazie a te per l'ospitalità e per avermi pensata, per avermi dato questa possibilità. Ed ora ci ascolteremo il nuovo singolo di Giulia, Ancora in piedi. Sono già le 6. Hey. Cosa ho fatto tutto il tempo non saprei. Hey. Mi accorgo che la notte è già finita. Vorrei ricominciare da capo un'altra vita. Ma poi penso a te e cerco di restare a fuoco nel silenzio. Almeno non fa male. E cerco altri sogni, cerco altri sfoghi. Ma non riesco a non pensare. Gli occhi si chiudono a metà. E cerco le tue mani anche se non ci credi. Penso quando un giorno non ci sarà. Tu dimmi se rimani, che resto ancora in piedi. Anche se la notte non dormirà. Io non vedo i colori, li vedo sempre neri. Non dormirò domani, ma resto ancora in piedi. Non dormirò. Questa stanza, ormai i miei pensieri non hanno più importanza. Che accadrebbe se smettessi di pensare? Un giorno nella vita non mi farebbe male. E non avrei più sogni, non avrei più sfoghi, ma sarebbe facile, sarei più stabile. E cerco le tue mani anche se non ci credi. Penso quando un giorno sono già le 6.